Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti a questa 18ª puntata del Pinsimonio, che sarà l'ultima di quest'estate. Poi ci rivediamo a settembre con il nuovo palinsesto di Radio Città Fujiko. Le parole di oggi sono legate all'estate, appunto, e sono vacanza, divertimento, svago, trastullo e spasso. Cominciamo quindi con vacanza, che deriva dal latino vacantia, che significava essere libero, che è il participio presente di vacare, che vuol dire essere vuoto. La vacanza è il fatto, la condizione di essere o rimanere vacante, lo stato di una carica, di un ufficio civile o ecclesiastico che siano privi del titolare e anche il periodo durante il quale rimangono vacanti. Nell'accezione più attuale è l'intermissione o temporanea cessazione di un'attività o anche il riposo più o meno lungo dalle proprie ordinarie occupazioni che una persona si concede o si fa concedere. In locuzioni determinate indica anche una sospensione, come la vacanza navale, che è la temporanea sospensione della costruzione di nuove navi da guerra. Continuiamo con divertimento, che anticamente significava allontanamento o anche digressione, e invece in senso più attuale è quanto serva a divertire, cioè a sollevare l'animo dalle fatiche del lavoro e ad allontanare il pensiero dalle preoccupazioni quotidiane. Quindi passatempo, spasso e talora anche piacere che distoglie da attività più serie o il godimento stesso procurato da uno spasso. E anche svago in questo caso significa più o meno lo stesso, cioè lo svagarsi come riposo temporaneo o come distrazione dalle normali occupazioni. Un altro termine magari meno usato è trastullo, che indica l'azione di trastullare o anche il fatto stesso di trastullarsi come svago o divertimento, anche nel significato più concreto l'oggetto con cui ci si trastulla, e anticamente era usato anche con riferimento a piaceri non puerili, anche di natura spirituale. E terminiamo con spasso, che significa sempre divertimento o passatempo piacevole. Ogni tanto bisogna prendersi un po' di spasso. E indica anche il piacere o il godimento che si prova nel divertirsi, nel trascorrere piacevolmente il tempo. È stato uno spasso. Con significato più concreto, anche una persona o cosa che costituiscono motivo di spasso o di divertimento. Quel tipo è uno spasso. E nel suo secondo significato, spasso significa anche passeggio o breve passeggiata fatta per svago, usata solo nella locuzione a spasso, come andare a spasso. Così si conclude questa ultima puntata estiva del Pinsimonio. Io vi auguro un piacevole svago durante questo agosto e noi ci risentiamo sempre a settembre sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Buon proseguimento su Radical Pop. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko dal lunedì al venerdì dopo la rassegna stampa di Radio Zanardi, oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale, e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.